Dopo che se ne fu andato, Rosamund cercò di alzarsi dalla poltrona, ma ricadde all'indietro svenuta. Quando riprese conoscenza si sentì troppo male per fare lo sforzo di alzarsi e suonare il campanello e restò lì, inerme, finché la ragazza, sorpresa per la sua lunga assenza, pensò per la prima volta di andarla a cercare nelle stanze da basso. Rosamond disse che si era sentita improvvisamente male e sul punto di svenire e volle essere aiutata a salire di sopra. Quando fu là, si buttò sul letto, con gli abiti indosso e giacque in un apparente torpore, come aveva fatto un'altra volta in precedenza in un memorabile giorno di dolore. Lydgate rincasò più presto di quanto si fosse aspettato, verso le 5:30, e la trovò là. La coscienza che stava male mise in ombra ogni altro pensiero. Quando le sentì il polso, gli occhi di lei si posarono su di lui con maggiore insistenza di quanto accadesse da tempo, come se provasse una certa gioia per il fatto che egli era lì. Questi si rese conto in un attimo della differenza e sedutosi presso di lei le passò dolcemente il braccio sotto e piegatosi su di lei disse: «Mia povera Rosamond, ti ha turbato qualcosa?» Attaccatasi a lui, scoppiò in singhiozzi e grida isterici, e per tutta l'ora successiva egli non fece altro che calmarla e curarsi di lei. Immaginò che Dorotea fosse venuta a trovarla e che tutto questo effetto sul suo sistema nervoso, che evidentemente comportava un qualche mutato atteggiamento verso di lui, fosse dovuto all'agitazione delle nuove impressioni che quella visita aveva suscitato. Capitolo 79. Quando Rosamond si fu tranquillizzata, Lydgate la lasciò, sperando che si addormentasse entro poco tempo sotto l'effetto di un sedativo, e passò nel salotto per prendere un libro che vi aveva lasciato, con l'intenzione di trascorrere la sera nel suo studio, allorché scorse sul tavolo la lettera di Dorothea indirizzata a lui. Non si era azzardato a chiedere a Rosamond se Mrs. Casaubon fosse passata a farle visita, ma la lettura di quella lettera lo rese certo di questo, perché Dorotea accennava che l'avrebbe portata lei stessa. Quando Will Ladislaw venne un po' più tardi, Lydgate lo accolse con un'aria sorpresa, da cui si capiva benissimo che non era stato informato della visita precedente, e Will non poteva dire: «Mrs. Lydgate, non vi ha detto che sono venuto questa mattina?» «La povera Rosamond sta male», Lydgate aggiunse subito dopo averlo salutato. «Niente di serio, spero», disse Will. «No, solo una leggera scossa nervosa, effetto di una qualche agitazione. Negli ultimi tempi si è affaticata troppo. La verità è, Ladislav, che sono un poveraccio sfortunato. Da quando siete partito abbiamo passato le pene del purgatorio e ultimamente mi sono trovato in una situazione peggiore che mai. Suppongo che siate appena arrivato. Avete un aspetto molto sbattuto e non siete stato in città abbastanza tempo per sentir dire nulla. Ho viaggiato tutta la notte e sono arrivato al White Hart alle 8 di questa mattina. Mi sono chiuso in camera a riposare», disse Will, con senso di agire da persona subdola, ma non trovando alcuna alternativa a questa scappatoia. Quindi restò ad ascoltare il racconto che gli fece Lydgate dei guai che Rosamond gli aveva già dipinto a suo modo. Lei non aveva accennato al fatto che il nome di Will era stato messo in rapporto con quella storia di dominio pubblico. Questo particolare non la toccava da vicino e ora lo venne a sapere per la prima volta. «Ho pensato fosse meglio dirvi che il vostro nome è coinvolto nelle rivelazioni», disse Lydgate, il quale poteva capire meglio della maggior parte degli uomini come Ladislav potesse sentirsi ferito dalla scoperta. «Lo sentirete certamente appena andrete in città, suppongo che sia vero che Raffles vi ha parlato». «Sì», disse Will con aria sardonica. «Sarò fortunato se le male lingue non faranno di me la persona più losca di tutta la faccenda. Potrei arrivare a pensare che la versione più aggiornata debba essere che io abbia complottato insieme a Raffles di assassinare Balstrow e per questo sia scappato da Middlemarch». Stava pensando. Ecco che il mio nome ha un nuovo suono per raccomandarsi alle orecchie di lei. Comunque, cosa importa ora? Ma non disse nulla dell'offerta fatagli da Balstrow. Will era molto franco e incauto riguardo alle sue faccende personali, ma uno dei tratti più raffinati conferitigli dalla natura nel modellarlo era che fosse dotato di una delicata generosità, che su questo punto lo indusse alla reticenza. Si astenne dal dire di aver rifiutato il denaro di Balstrow nel momento in cui veniva a sapere che la disgrazia di Lydgate era di averlo accettato. Anche Lydgate fu reticente, fra tante confidenze. Non fece alcuna allusione ai sentimenti di Rosamond quando si erano trovati nei guai e di Dorothea disse solo: Mrs. Gazebo è stata l'unica persona a farsi avanti e dirmi che non credeva in nessuno dei sospetti contro di me. Notando un mutamento sul volto di Will, evitò di parlare oltre di lei, sentendosi lui stesso troppo all'oscuro dei loro rapporti reciproci per non temere che le proprie parole potessero avere qualche segreta dolorosa attinenza con essi. E gli venne in mente che Dorothea era la vera causa della sua attuale visita a Middlemarch. I due uomini si stavano a compassionare a vicenda, ma fu solo Will a indovinare fino a che punto il compagno fosse tormentato. Quando Lydgate parlò con disperata rassegnazione di andarsi a stabilire a Londra e disse con un debole sorriso: Vi avremo di nuovo in casa, amico mio. Will provò una tristezza inesprimibile e non disse nulla. Quella mattina Rosamond lo aveva pregato di insistere con Lydgate perché facesse questo passo e gli parve quasi di vedere in un magico panorama un futuro in cui lui stesso scivolava in quella demoralizzata arrendevolezza alle piccole sollecitazioni delle circostanze, che è una storia di perdizione più comune di qualsiasi unico affare di una certa importanza. Ci troviamo su un ciglio pericoloso in cui cominciamo a guardare passivamente il nostro futuro e vediamo le nostre figure condotte con torbido consenso a insipidi misfatti e miserandi successi. Il povero Lydgate dentro di sé gemeva su questo ciglio e Will vi stava giungendo. Quella sera gli parve quasi che la crudeltà del suo sfogo con Rosamond lo avesse legato a un obbligo ed egli temeva quell'obbligo, aveva terrore dell'ignara benevolenza di Lydgate, aveva terrore del proprio disgusto per la vita rovinata che lo avrebbe lasciato in una frivolezza priva di scopi. Capitolo 80. Quando Dorothea aveva visto Mr. Fairbrother al mattino, aveva promesso che al suo ritorno da Freshitt sarebbe andata a cenare alla casa parrocchiale. Fra lei e la famiglia Fairbrother c'erano frequenti scambi di visite che le consentivano di dire di non essere per nulla sola al palazzo e per il momento di opporsi alla severa medicina di una dama di compagnia. Quando fu rincasata e si ricordò dell'impegno, ne fu felice. E accortasi che le restava ancora un'ora prima di vestirsi per la cena, andò dritta alla scuola, dove si mise a conversare col maestro e la maestra a proposito della nuova campana, prestando viva attenzione ai loro piccoli dettagli e racconti. E ricavando la sensazione emozionante che la propria vita fosse assai impegnata. Sulla via di ritorno si fermò a parlare col vecchio Mastro Banni, intento a piantare alcuni semi di ortaggi, e conversò da persona assennata con quel saggio campagnolo sui raccolti che avrebbero reso di più in una pertica di terra e sul risultato di 60 anni di esperienza in materia di terreni, cioè che se il terreno era abbastanza grasso sarebbe andato bene, ma se pioveva, pioveva, pioveva, pioveva, da renderlo tutto un ammasso impastato, beh, allora. Resasi conto che il suo umore socievole l'aveva inconsapevolmente trascinata ad attardarsi alquanto, si vestì in fretta e andò alla casa parrocchiale un po' prima del necessario. La casa non era mai toccata dalla noia, poiché Mr. Fairbrother, come un novello Whitey di Selbourne, aveva di continuo qualcosa di nuovo da raccontare sui propri ospiti e protégé privi di favella, che insegnava ai bambini a non tormentare. Ne aveva appena elevato una coppia di stupende capre al rango di mascotte del villaggio in generale, mandandole a girare liberi come animali sacri. La serata passò allegramente, fino a dopo il tè. Dorothea parlò più del consueto e si dilungò con Mr. Fairbrother sulle possibili storie di animali che discorrono succintamente per mezzo delle antenne, e per quello che ne sappiamo, possono tenere delle riunioni in un parlamento riformato. Allorché, d'improvviso, si udirono alcuni lievi rumori inarticolati che attirarono l'attenzione di tutti. Henrietta Noble, disse Mrs. Fairbrother, alla vista della sua minuscola sorella che si muoveva disperatamente fra le gambe dei mobili. Cosa ti succede? Ho perso la mia scatoletta di osso di tartaruga per le pastiglie. Ho paura che il gattino l'abbia fatta rotolare via, disse la vecchia, minuscola signora, continuando involontariamente a emettere i suoi squittii da castoro. È un gran tesoro, zia? Disse Mr. Fairbrother, inforcando gli occhiali e scrutando il tappeto. Me l'ha data Mr. Ladislav, disse Miss Noble. Una scatoletta tedesca, molto carina. Ma se cade, rotola sempre più lontano che può. Se è il regalo di Ladislav, fece Mr. Fairbrother in tono di profonda comprensione, alzandosi in piedi e mettendosi alla ricerca. La La scatoletta fu infine ritrovata sotto uno stipo e Miss Noble la strinse con gioia dicendo: L'ultima volta era sotto un parafuoco. Per mia zia questa è una faccenda di cuore, disse Mr. Fairbrother sorridendo alla volta di Dorothea mentre tornava a sedersi. Se Henrietta Noble si affeziona a qualcuno, Mrs. Casaubon, disse sua madre con voce energica, diventa come un cane. Prenderebbe le sue scarpe per cuscino e dormirebbe meglio. Con le scarpe di Mr. Ladislav lo farei, disse Henrietta Noble. Dorothea cercò di rispondere con un sorriso. Rimase sorpresa e contrariata nel rendersi conto che il cuore le batteva con violenza e che era assolutamente inutile cercare di recuperare la sua precedente vivacità. Spaventata da essa, temendo di tradire ancora di più un mutamento così visibile, si alzò e disse con voce sommessa e manifesta ansietà: Devo andare. Mi sono stancata troppo. Mr. Fairbrother, dall'intuito rapido, si alzò e disse: È vero, vi dovete essere quasi sfinita a parlare di Lydgate. Questo genere di lavoro fa sentire le sue conseguenze dopo che l'eccitazione è terminata. E diede il braccio e la riaccompagnò fino al palazzo, ma Dorothea non tentò di parlare, neppure quando le diede la buonanotte. Aveva raggiunto i limiti della resistenza ed era ripiombata impotente in balia di un'angoscia ineluttabile. Congedata Tantripp con alcune parole flebili, chiuse la porta a chiave e, volto lo sguardo da questa alla stanza vuota, si premette forte le mani sul capo ed emise un lamento. Come l'amavo! Allora giunse il momento in cui le ondate di sofferenza la scossero troppo violentemente per lasciarle qualsiasi capacità di pensare. Poté solo piangere in sonori sussurri fra i singulti sulla sua fiducia perduta che aveva seminata e conservata viva fin da quando era stata un seme piccolissimo nei giorni di Roma, sulla sua perduta gioia di appigliarsi con amore e fedeltà muti a uno che, disprezzato da altri, nel suo pensiero era degno, sul proprio perduto orgoglio femminile di regnare nella memoria di lui, sulla sua dolce, vaga prospettiva di speranza che lungo un qualche pensiero si sarebbero incontrati, riconoscendosi in maniera immutata, e avrebbero riallacciato le fila degli anni trascorsi, come fosse stato il giorno precedente. In quell'ora ripeté ciò che gli occhi pietosi della solitudine vedono da secoli nelle lotte spirituali dell'uomo. Pregò che la durezza, la freddezza e il dolore della stanchezza le recassero sollievo dalla misteriosa e incorporea energia della sua angoscia. Giacque sul pavimento nudo e lasciò che la notte le si raggelasse intorno, mentre il suo corpo di grandonna era scosso da singulti come fosse stata una bambina disperata. C'erano due immagini, due forme vive che le dilaniavano il cuore in due, come se fosse stato il cuore di una madre a cui par di vedere il figlio diviso dalla spada, e se ne stringe una metà al petto, mentre il suo sguardo angosciato va verso la metà portata via dalla donna bugiarda che non ha mai conosciuto il dolore di una madre. Qui, nella prossimità di un sorriso ricambiato, qui, entro il vincolo vibrante delle loro parole, c'era la luminosa persona di cui si era fidata, che era venuta a lei come lo spirito del mattino nell'ossuta cripta in cui lei sedeva, come sposa di una vita estenuata. Ed ora, con una piena consapevolezza che in precedenza non si era mai destata, tese le mani verso di lui e gridò con amare lacrime che la loro vicinanza era una visione di addio. Svelò a se stessa la propria passione nel dar voce con risolutezza alla propria disperazione. E là, distaccato, eppure sempre assieme a lei, seguendola ovunque lei andasse, c'era il Will Ladislav che rappresentava una fede mutata, svuotata di speranza, una falsa illusione smascherata. No, un uomo vivo alla volta del quale non poteva farsi strada alcun lamento di compassione o di rincrescimento fra il disprezzo e l'indignazione e l'orgoglio geloso offeso. Il fuoco dell'ira di Dorothea non si smorzava facilmente, divampava con intermittenza a rinnovarsi di rimproveri sprezzanti. Perché era venuto a intromettere la sua vita in quella di lei? Di lei, che avrebbe potuto essere sufficientemente completa senza di lui? Perché aveva portato la sua considerazione da quattro soldi e le sue parole insincere a lei, che non aveva nulla di spregevole da dargli in cambio? Egli sapeva di ingannarla. Desiderava nello stesso momento del congedo farle credere di valutare pienamente il cuore di lei e sapeva di averne già impegnato la metà. Perché non era rimasto fra la folla, a cui lei non chiedeva nulla, ma solo pregava che fosse meno spregevole. Ma alla fine le venne meno l'energia anche per le grida e i lamenti sussurrati a voce alta, si abbandonò a dei singulti disperati e si addormentò sul pavimento freddo, singhiozzando. Nelle gelide ore del primo mattino, quando intorno a lei tutto era indistinto, si destò, non chiedendosi stupita dove fosse o cosa fosse accaduto, ma con la chiarissima consapevolezza di fissare il volto della tristezza. Si alzò, si avvolse in qualcosa di caldo e si sedette in una grande poltrona dove aveva spesso vegliato in precedenza. Era abbastanza forte ad aver superato quella difficile notte senza sentirsi male fisicamente, tranne un qualche malessere e un senso di spossatezza, ma nel destarsi si era trovata in una nuova condizione. Sentiva come se la sua anima fosse stata liberata da quel terribile conflitto. Non lottava più col proprio dolore, ma poteva starsene seduta assieme ad esso come con un durevole compagno e farlo partecipe dei propri pensieri. Infatti ora i pensieri le giungevano in frotta. Non era nel carattere di Dorotea starsene seduta nell'angusta cella della propria sfortuna più a lungo della durata di una crisi, nella disperazione instupidita di una coscienza che vede il destino altrui solo come un episodio marginale del proprio. Ora prese deliberatamente a ripensare al mattino del giorno precedente, imponendosi di soffermarsi su ogni particolare e sul suo possibile significato. Era sola in quella scena? Era una cosa accaduta soltanto a lei? Si impose di considerarla legata alla vita di un'altra donna, una donna alla volta della quale si era diretta col desiderio di recare un po' di chiarezza e di conforto alla sua giovanezza offuscata. Al primo scoppio di gelosa indignazione e di disgusto nel lasciare l'odiata stanza, aveva battuto al vento tutta la compassione con cui aveva intrapreso quella visita. Aveva avviluppato sia Will che Rosamond nel suo disprezzo bruciante e le parve quasi che Rosamond le fosse stata tolta da sotto gli occhi per sempre. Ma quell'ignobile impulso che rende una donna più crudele verso una rivale che verso un innamorato infedele non poteva avere la forza di ripresentarsi a Dorotea. Una volta che il suo senso dominante di giustizia avesse soffocato il tumulto e le avesse mostrato la dimensione più vera delle cose. Tutto l'attivo pensare con cui in precedenza aveva rappresentato alla propria immaginazione le tribolazioni del destino di Lydgate e questa giovane unione matrimoniale che, come la propria, sembrava avere le sue difficoltà nascoste oltre che palesi, tutta questa viva esperienza di comprensione, ora le ritornò come una forza. Si impose come si impone la conoscenza che una volta acquisita non ci permette di vedere come vedevamo al tempo della nostra ignoranza. Disse al proprio dolore insanabile che esso avrebbe dovuto renderla più servizievole invece di farla indietreggiare dallo sforzo. E che sorta di crisi non avrebbe potuto essere questa, in quelle tre esistenze il cui contatto con la sua le imponeva un obbligo, come se esse fossero state dei supplici col ramoscello benedetto? Lei non doveva trovare con la fantasia le persone da trarre a salvamento. Gliele avevano scelte. Anelava la giustizia perfetta perché divenisse un trono entro di lei e governasse la sua volontà errabonda. Cosa dovrei fare? Come dovrei comportarmi ora, oggi stesso, se potessi afferrare il mio dolore e costringerlo al silenzio e pensare solo a quei tre? Aveva impiegato molto tempo per giungere a quella domanda. E un po' di luce stava penetrando nella stanza. Aprì le tende e guardò fuori verso il breve tratto di strada visibile attraverso i campi, al di fuori del cancello d'ingresso. Per la strada c'erano un uomo con un fagotto sulla schiena e una donna che reggeva il proprio bambino. Nel campo scorse delle figure che si muovevano, forse il pastore col suo cane. In lontananza, nel cielo concavo, c'era la luce perlacea. E lei avvertì la vastità del mondo e i molteplici modi con cui gli uomini si ridestavano alla fatica e alla sopportazione. Lei era parte di quella vita involontaria e palpitante e non poteva né guardare ad essa dal suo lussuoso riparo come semplice spettatrice, né nascondere gli occhi in un rammarico egoista. Ciò che avrebbe deciso di fare quel giorno non le appariva ancora del tutto chiaro, ma qualcosa che avrebbe potuto compiere la stimolava come per l'approssimarsi di un mormorio che ben presto avrebbe assunto chiarezza. Si tolse gli abiti che sembravano impregnati un po' della stanchezza di una dura veglia e cominciò a far toeletta. Quasi subito chiamò col campanello Tantripp, la quale giunse in vestaglia. «Ma come, signora? Non siete andata a letto questa notte?» sbottò Tantripp, guardando prima il letto e poi il volto di Dorotea che, nonostante si fosse lavata, aveva le guance pallide e le palpebre rosa di una mater dolorosa. «Vi ucciderete!» Ve lo dico io. Chiunque adesso potrebbe pensare che avete diritto di concedervi un po' di comodità. Non ti allarmare, Tantripp, disse Dorotea sorridendo. Ho dormito, non sono ammalata. Mi farà molto piacere una tazza di caffè appena puoi e voglio che mi porti il vestito nuovo. Ed è assai probabile che oggi abbia bisogno del mio nuovo cappellino. Sono là da un mese e più, pronti per voi, signora, e sarò molto contenta di vedervi con un paio di sterline in meno di crespo addosso, disse Tantripp piegandosi per accendere il fuoco. Tenere il lutto è giusto, come ho sempre detto, e tre piegature in fondo alla sottana e un nastro normale al cappellino. E se mai qualcuno è sembrato un angelo, siete voi con un nastro di rete. Sono quello che si addice a un secondo anno. Almeno così la penso io, concluse Tantripp guardando con ansia il fuoco. E se qualcuno dovesse sposarmi con la presunzione che io indossassi per 2 anni quegli odiosi nastri neri per lui, si sbaglierebbe di grosso nella sua vanità. Questo è tutto. Il fuoco va bene così, mia buona Tan, disse Dorotea, parlando come era solita fare ai vecchi tempi in cui era l'osanna, solo a voce molto più bassa. Va a prendermi il caffè. Si rannicchiò nell'ampia poltrona e appoggiò il capo contro di essa in una inattività affaticata, mentre Tantripp se ne andò stupita di quella strana contraddizione nella sua giovane signora, che proprio il mattino in cui aveva più che mai una faccia da vedova, avesse chiesto il lutto più leggero che aveva rifiutato in precedenza. Tantripp non avrebbe mai trovato la soluzione di questo mistero. Dorotea non aveva intenzione di condurre una vita meno attiva per il fatto di aver sepolto una gioia personale e la sua mente ossessionata dalla tradizione, che gli abiti nuovi erano propri di ogni iniziazione, la spinse ad attaccarsi anche a quel fragile aiuto esteriore per raggiungere una calma decisione. Perché la decisione non era facile. Comunque, alle 11 stava camminando verso Middlemarch, dopo aver deciso di compiere nel modo più tranquillo e inosservato il secondo tentativo di andare a visitare e salvare Rosamond. Capitolo 81. Quando Dorotea si presentò di nuovo alla porta di Lydgate e parlò con Marta, egli era nella stanza accanto con la porta socchiusa e si stava preparando ad uscire. Udì la sua voce e immediatamente le andò incontro. Pensate che Mrs. Lydgate possa ricevermi questa mattina? Chiese, dopo aver riflettuto che sarebbe stato meglio omettere ogni allusione alla propria visita precedente. Senza dubbio, rispose Lydgate, cercando di non far caso all'aspetto di Dorotea, che era mutato quanto quello di Rosamond. Se volete essere così gentile da entrare e da lasciarmi andare a dirle che siete qui, non sta bene da quando siete venuta ieri, ma stamane è migliorata e credo che molto probabilmente il rivedervi la rallegrerà. Era evidente che Lydgate, come Dorotea si era aspettata, non sapeva nulla delle circostanze della sua visita precedente, anzi, sembrava immaginare che fosse avvenuta secondo le intenzioni di Dorotea. Questa aveva preparato un biglietto con cui chiedeva a Rosamond di vederla e l'avrebbe dato alla donna di servizio se egli non fosse stato lì, ma ora nutriva una grande apprensione per il risultato dell'annuncio fatto da lui. Dopo averle fatto strada fino al salotto, egli si fermò per estrarre una lettera dalla tasca e mettergliela in mano dicendo: «L'ho scritta ieri sera e avevo intenzione di portarla a Lowick durante il mio giro. Quando si è grati per qualcosa di troppo generoso per dei normali ringraziamenti, lo scritto lascia meno a desiderare della parola, almeno non si sente quanto siano inadeguate le parole». Il volto di Dorotea si illuminò. Sono io che devo essere maggiormente grata dal momento che mi avete lasciato assumere quel ruolo. Avete acconsentito? Chiese, presa da un dubbio improvviso. Sì, l'assegno arriverà oggi da Bulstrode. Egli non disse altro, ma salì di sopra da Rosamond, che aveva finito da poco di vestirsi e sedeva a fiacca, chiedendosi cosa avrebbe fatto dopo, poiché la sua abituale operosità nelle piccole cose, anche nei giorni di tristezza, la spingeva a un qualche genere di occupazione che trascinava stancamente per le lunghe o interrompeva per mancanza di interesse. Aveva un aspetto malato, ma aveva ritrovato la consueta tranquillità di atteggiamento e Lydgate aveva avuto paura di turbarla con una domanda qualsiasi. Le aveva detto della lettera di Dorotea che conteneva l'assegno e poi aveva aggiunto: Ladislav è arrivato, Rosie. È rimasto assieme a me ieri sera. Penso che tornerà oggi. Mi è parso piuttosto malconcio e depresso. E Rosamond non aveva risposto nulla. Ora, quando fu salito, le disse con grande tenerezza: Rosy cara, Mrs. Casaboy è tornata a trovarti. Avresti piacere di vederla, vero? Il fatto che arrossisse e facesse un movimento alquanto allarmato non lo sorprese. Dopo l'agitazione prodotta dal colloquio del giorno precedente, un'agitazione benefica, egli pensò, poiché sembrava averla indotta a volgersi di nuovo a lui. Rosamond non osò dire di no. Non osò proferire parola sui fatti del giorno precedente, perché Mrs. Casaboy era tornata. La risposta era un vuoto che Rosamond poteva riempire solo di timore, perché le parole sferzanti di Will Ladislav le avevano fatto di ogni pensiero di Dorothea una ferita fresca. Cioè non di meno, nel suo nuovo stato di umiliante incertezza, non osava far altro che ubbidire. Non disse di sì, ma si alzò e lasciò che Lydgate le mettesse un leggero scialle sulle spalle mentre diceva: Esco immediatamente. Poi qualcosa le passò per la mente e la indusse a dire: Ti prego, avvisa Martha di non lasciar passare nessuno nel salotto. E Lydgate assentì, credendo di aver compreso completamente questo desiderio. La condusse giù alla porta del salotto e poi si avviò, osservando fra sé e sé che era un marito alquanto pasticcione se doveva contare sull'influenza di un'altra donna per guadagnarsi la fiducia della moglie. Rosamond, avvolgendosi tutta nel morbido scialle mentre si dirigeva verso Dorotea, interiormente avvolgeva la propria anima in un freddo riserbo. Mrs. Casaboy era venuta a dirle qualcosa su Will? Se era così, questa era una libertà che irritava Rosamond e si preparò a reagire ad ogni parola con un'educata impassibilità. Will le aveva ferito troppo dolorosamente l'orgoglio perché lei provasse alcun rimorso nei suoi riguardi e in quelli di Dorotea. La propria ferita le sembrava di gran lunga la maggiore. Dorotea non era solo la donna preferita, ma godeva anche del formidabile vantaggio di essere la benefattrice di Lydgate e alla mente dolorante e confusa della povera Rosamond, parve che questa Mrs. Casaboy, questa donna che dominava in tutte le faccende che la riguardavano, ora dovesse essere venuta con la sensazione di avere quel vantaggio e con un'animosità che la spingeva ad approfittarne. In effetti, non solo Rosamond, ma chiunque altro che avesse conosciuto i fatti esteriori e non la semplice ispirazione in base alla quale agiva Dorotea, avrebbe potuto ben chiedersi perché fosse venuta. Simile nell'aspetto al bel fantasma di se stessa, l'aggraziata figura snella, avvolta nel morbido scialle bianco, la bocca e le guance rotonde e infantili con un'aria di mitezza e di innocenza, Rosamond si fermò a 3 metri di distanza dalla visitatrice e si inchinò. Ma Dorotea, che si era tolti i guanti, spinta da un impulso a cui non riusciva mai a resistere quando desiderava sentirsi in libertà, si fece avanti e col volto pieno di una triste e pur dolce franchezza tese la mano. Rosamond non poté fare a meno di incrociare il suo sguardo, non poté evitare di mettere la propria piccola mano in quella di Dorotea, che la strinse con un dolce sentimento materno. Immediatamente un dubbio sui propri pregiudizi prese ad agitarsi entro di lei. L'occhio di Rosamond sapeva leggere i volti con rapidità. Vide che la faccia di Mrs. Casaboy aveva un aspetto pallido e mutato da quello del giorno precedente, eppure gentile e simile alla ferma tenerezza della sua mano. A Dorotea aveva contato un po' troppo sulla propria forza. La chiarezza e l'intensità del suo lavorio mentale questa mattina erano il seguito di un'esaltazione nervosa che rendeva la sua persona pericolosamente sensibile, come uno degli esemplari migliori di cristallo veneziano. E nel guardare Rosamond, d'improvviso sentì il proprio cuore traboccare e non riuscì a parlare. Dovette ricorrere a tutta la propria energia per trattenere le lacrime. Ci riuscì. E quell'emozione passò sul suo volto come l'ombra di un singhiozzo. Ma questo riconfermò l'impressione di Rosamond che lo stato d'animo di Mrs. Casaboy doveva essere del tutto diverso da quello che lei si era immaginata. Così, senza una parola di premessa, si sedettero nelle due poltrone che per caso erano più vicine e che per caso erano anche accostate, sebbene l'intenzione di Rosamond quando si era inchinata in precedenza fosse di starsene assai distante da Mrs. Casaubon. Ma smise di pensare a come qualsiasi cosa si sarebbe risolta, chiedendosi semplicemente cosa sarebbe accaduto. E Dorothea si mise a parlare in maniera del tutto semplice, acquistando un tono sempre più fermo mentre procedeva. Ieri dovevo sbrigare una faccenda che non ho terminato. Ecco perché sono di nuovo qui, dopo così poco tempo. Non mi considererete troppo importuna quando vi dirò che ero venuta a parlarvi dell'ingiustizia commessa verso Mr. Lydgate. Vi rallegrerà, non è così, venire a sapere molte cose su di lui, di cui forse preferisce non parlare proprio perché lo scagionano e vanno a suo onore. Vi piacerà sapere che vostro marito ha degli amici affettuosi quali non hanno cessato di credere nel suo buon nome? Mi lascerete parlare di questo senza pensare che mi prendo una libertà? La voce cordiale e supplichevole che sembrava passare con generosa noncuranza su tutti i fatti che avevano occupato la mente di Rosamond come motivi di impedimento e di odio fra lei e questa donna, giunsero tranquillizzanti come un flusso caldo sulla sua timorosa esistenza. Naturalmente Mrs. Casaubon aveva presente i fatti, ma non aveva intenzione di parlare di nulla che avesse attinenza con essi. Quel sollievo era troppo grande per Rosamond perché provasse granché d'altro al momento. E rispose con grazia, il cuore preso da una nuova tranquillità. So che siete stata molto buona. Sarò lieta di ascoltare qualsiasi cosa mi direte su Tertius. L'altro ieri, disse Dorothea, quando gli avevo chiesto di venire a Lowick per dirmi la sua opinione sulle faccende dell'ospedale, mi ha raccontato tutto sulla sua condotta e sui suoi sentimenti durante questo triste avvenimento che ha indotto le persone ignoranti a gettare dei sospetti su di lui. Me ne ha parlato per il motivo che sono stata assai audace e l'ho interrogato. Ero certa che non si fosse mai comportato in modo disonorevole e l'ho pregato di raccontarmi la storia. Egli mi ha confessato di non averla mai rivelata in precedenza, neppure a voi, perché provava una grande ripugnanza a dire non ho sbagliato, come se ciò fosse una prova, quando ci sono persone veramente colpevoli che lo dicono. La verità è che egli non sapeva niente di questo Raffles, né che ci fossero degli spiacevoli segreti sul suo conto e pensò che Mr. Balstrow gli offrisse il denaro perché per animo gentile si era pentito di averglielo rifiutato in precedenza. Tutta la sua preoccupazione per questo paziente era di curarlo nel modo giusto ed ha provato un po' di disagio perché il caso non si è concluso come si era aspettato, ma allora ha pensato e tuttora pensa che forse nessuno si è macchiato di alcuna colpa. E io l'ho detto a Mr. Fairbrother e a Mr. Brooke e a Sir James Chatham. Tutti quanti credono in vostro marito. Questo vi rallegrerà, no? Vi infonderà coraggio. Il volto di Dorothea si era animato e mentre sorrideva raggiante Rosamond molto vicina a lei, questa provò qualcosa di simile a una ritrosa timidezza di fronte a un superiore, alla presenza di questa ardente abnegazione. Con un rossore imbarazzato disse: Vi ringrazio, siete molto gentile. Ed egli ha capito di aver fatto così male a non confidarvi tutto su questa faccenda. Ma lo perdonerete. È stato perché la vostra felicità gli preme più di qualsiasi altra cosa. Sente la sua vita un tutt'uno con la vostra e gli duole più di qualsiasi cosa che le sue disgrazie vi facciano male. Ha potuto parlare con me perché io sono una persona irrilevante e allora gli ho chiesto se potevo venire a trovarvi. Perché mi stavano tanto a cuore i suoi guai e i vostri. Ecco perché ero venuta ieri e perché sono venuta oggi. I guai sono difficili da sopportare, vero? Come si può vivere e pensare che qualcuno ha dei guai, dei grossi guai, e che lo si potrebbe aiutare e non tentare? Dorothea, completamente trascinata dal sentimento che esprimeva, dimenticò tutto. Eccetto che stava parlando dal cuore stesso della propria tribolazione a quello di Rosamond. L'emozione si era insinuata sempre più nella sua voce, finché l'accento sarebbe potuto giungere fino alle fibre più segrete di una persona, come un grido sommesso proveniente da una qualche creatura che soffre nell'oscurità. E inconsapevolmente aveva posato di nuovo la mano sulla piccola mano che prima aveva stretto. Rosamond, con un dolore prepotente, quasi che le fosse stata sondata una ferita, scoppiò in un pianto isterico, come aveva fatto il giorno prima quando si era aggrappata al marito. La povera Dorotea si sentì di nuovo soccombere sotto l'enorme empito del proprio dolore. Venne sospinta a pensare alla parte possibile che Will Ladislav poteva avere nel turbamento mentale di Rosamond. Cominciava a temere di non poter essere in grado di trattenersi abbastanza fino al termine di questo incontro, e mentre la sua mano era ancora posata sul grembo di Rosamond, sebbene la mano sotto di essa fosse ritratta, si dibatteva contro il sorgere di un singulto entro di sé. Cercò di dominarsi col pensiero che quella poteva essere una svolta per tre vite, non per la sua. No! Lì l'irrevocabile era accaduto, ma in quelle tre vite che erano in contatto con la sua per la solenne vicinanza di pericolo e di angoscia. La fragile creatura che stava piangendo vicino a lei, forse poteva esserci ancora il tempo di salvarla dall'infelicità di vincoli falsi e incompatibili, e quel momento era diverso da qualsiasi altro. Lei e Rosamond non avrebbero più potuto essere di nuovo assieme con la stessa vibrante consapevolezza del giorno precedente. Avvertiva che il loro rapporto era singolare, quanto bastava per conferirle un ascendente particolare, sebbene non avesse idea che il modo in cui i propri sentimenti erano coinvolti era ben noto a Mrs. Lydgate. Per l'esperienza di Rosamond si trattava di una crisi più nuova di quanto persino Dorotea potesse immaginare. Sentiva ancora le conseguenze del primo grande colpo che aveva infranto il suo mondo di sogni, dove aveva facilmente confidato in se stessa ed era stata critica nei confronti degli altri, e quella strana, inaspettata manifestazione di sentimento da parte di una donna che aveva avvicinato con timida avversione e timore, in quanto doveva necessariamente nutrire odio e gelosia nei suoi confronti. La fece vacillare, nell'intimo ancora di più, in preda alla sensazione di aver camminato in un mondo sconosciuto che le si era appena svelato. Quando la gola di Rosamond, in preda alle convulsioni, si stava calmando e lei mise via il fazzoletto con cui si era nascosta il volto, i suoi occhi incrociarono quelli di Dorotea, con la stessa aria inerme di fiori azzurri. A che serviva preoccuparsi del comportamento dopo questo pianto? E Dorotea aveva un aspetto quasi altrettanto infantile, con la traccia trascurata di una lacrima silenziosa. Fra queste due donne, l'orgoglio era sparito. Stavamo parlando di vostro marito, disse Dorotea con una certa timidezza. L'altro giorno ho pensato che il suo aspetto fosse tristemente cambiato per la sofferenza. Non lo vedevo da molte settimane. Mi ha detto di essersi sentito molto solo durante questa prova, ma penso che l'avrebbe sopportata meglio se fosse riuscito ad aprirsi del tutto con voi. Tertius diventa così arrabbiato e impaziente se dico qualcosa, fece Rosamond, immaginandosi che si fosse lagnato di lei con Dorotea. Non dovrebbe stupirsi se non mi va di parlare con lui di argomenti penosi. È stato a se stesso che ha dato la colpa per non aver parlato, disse Dorotea. Ciò che ha detto di voi è stato che non poteva trovare alcuna felicità in nulla che vi rendesse infelice, che il suo matrimonio era naturalmente un vincolo che doveva condizionare le sue scelte in ogni campo, e per questo motivo ha rifiutato la mia proposta di mantenere il posto all'ospedale, perché ciò lo avrebbe vincolato a restare a Middlemarch. Ed egli non ha voluto impegnarsi a far nulla che vi arrecasse dispiacere. Questo me l'ha potuto dire perché sa che ho sofferto molto nel mio matrimonio, per la malattia di mio marito che ostacolò i suoi progetti e lo rattristò. E lui sa che ho provato quanto sia duro procedere sempre nel timore di ferire un'altra persona che ci è legata. Dorotea tacque per un po'. Aveva notato che un vago piacere andava apparendo furtivamente sul volto di Rosamond, ma non ricevendo alcuna risposta, proseguì con un tremito crescente. Il matrimonio è così diverso da qualsiasi altra cosa. C'è persino qualcosa di terribile nella vicinanza che comporta, anche se amassimo qualcun altro di più di coloro con cui siamo sposate, sarebbe inutile. La povera Dorotea, nella sua ansia palpitante, riusciva a esprimersi solo a scatti. Voglio dire, Il matrimonio esaurisce tutta la nostra capacità di dare o di ricavare una qualsiasi beatitudine in quel genere d'amore. So che esso può essere assai caro, ma uccide il nostro matrimonio e allora il matrimonio resta con noi come un assassino e ogni altra cosa sparisce. E allora nostro marito, se egli ci amava e confidava in noi e noi non l'abbiamo aiutato, ma siamo state una maledizione per la sua vita. La sua voce era divenuta assai sommessa. Incombeva su di lei il timore di ardire troppo e di parlare come se lei fosse la perfezione che si rivolge all'errore. Era troppo presa dalla propria ansia per rendersi conto che anche Rosamond stava tremando e piena del bisogno di esprimere un'amicizia misericordiosa più che un rimprovero, posò la mano su quella di Rosamond e disse con più concitata rapidità: lo so che il sentimento può essere assai caro, ci ha colta nostra insaputa. È così difficile. Può sembrare una morte separarsi da esso. E noi siamo deboli. Io sono debole. L'empito del proprio dolore, dal quale lei tentava di tenere lontana un'altra persona, travolse Dorotea con una forza incontenibile. Tacque in preda a una muta agitazione, senza piangere, ma quasi con la sensazione di essere afferrata interiormente. Il suo volto si era fatto di un pallore più mortale, le labbra le tremavano e premette impotente le proprie mani su quelle che stavano sotto di esse. Rosamond, presa da un'emozione più forte della propria, rapidamente incalzata in un nuovo moto che conferiva a tutte le cose un certo aspetto nuovo, terribile, indefinito, non riusciva a trovare le parole, ma involontariamente appoggiò le labbra alla fronte di Dorotea, che lei era assai vicina, e poi per un minuto le due donne si strinsero come se si fossero trovate in un naufragio. Pensate una cosa che non è vera, disse Rosamond con un sussurro impaziente, mentre sentiva ancora le braccia di Dorotea che la cingevano, spinta da una misteriosa necessità di liberarsi da qualcosa che l'opprimeva come un delitto sanguinoso. Si separarono guardandosi a vicenda.